Io mi rivolgo indietro a ciascun passo, col corpo stanco, che a gran pena porto, ed prendo allora dal vostro aereo conforto, che il fa gir, oltre dicendo, oimè lasso. Poi ripensando al dolce ben ch'io lasso, al cammin lungo e al mio viver corto, fermo le piante, sbigottito et smorto, e ti dico in terra, lacrimando a basso. Talor m'assale in mezzo a tristi pianti un dubbio, come posson queste membra dallo spirito loro viver lontane. Ma rispondemi, amor, non ti rimembra. Questo è un privilegio degli amanti, sciolti da tutte qualità umane. Un dubbio, come possono queste membra dallo spirito loro viver lontane. Talor m'assale in mezzo a tristi pianti un dubbio, come possono queste membra dallo spirito loro vive lontane. Ma rispondemi, amor, non ti rimembra. Io mi rivolgo indietro a ciascun passo.